Signor Giovanardi, lei quanto ha perso nella Parmalat? 60.000 euro. Quando ha investito? Nel 2002, era in marzo, ecco. Questi erano i risparmi di tutta una vita? Sì, proprio tutti di una vita, sì. Anzi, i risparmi, perché quando sono partito di qua non c'avevo proprio nulla, nulla. E lavorando in Svizzera, dopo la volta, ho ricevuto questi in 32 anni. Lei di professione che faceva? Il muratore, sì. E quando ha deciso di investire nella Parmalat, cioè da chi è stato consigliato? Dalla Parmalat, contemporaneamente con questo promotore, diciamo così. Non è che io sono andato là, voglio la Parmalat. Adesso vi spiego bene. Io questi soldi li avevo in Svizzera, con la legge Tremonti, rogatorio, non so se lei capisce, si doveva prelevare, portarli via dalla Svizzera, perché io non ero più residente là. Allora ho fatto il bonus e li porto qua in Italia e vado qui al credito svizzero, che anche là li avevo nel credito svizzero per tanti anni. Ecco, ma là non ho, per 32 anni non ho mai avuto nulla che mi dasse questi dispiaceri, diciamo così. Lei quando è andato in banca ha specificato di, certo, di non essere, diciamo, esperto? Ma certo, e quasi in ginocchio ce lo dissi. Io non voglio rischiare, perché questo qui è frutto di 32 anni di lavoro all'estero, oppure anche in Italia no, all'estero. Allora, nella sicurezza, l'ho ripetuto per tante volte, perché nell'arco di 2 mesi che abbiamo fatto queste cose, di tanto in tanto andavo, mi telefonavo oppure andavo via per dire cose. Ecco, quando è arrivato il bonus via scorrendo, dividiamo questo gruzzolo, diciamo così. Allora abbiamo scelto uno, ma prima di scegliere, devo dire, nella sicurezza. Sì. E loro gli dissero che la Parmalat era un'azienda sicura? Lui non mi disse niente, ossia, diciamo che è la decima azienda quotata in borsa come capitale via scorrendo, e non si poteva avere dei dubbi, no? Però lui doveva tenere presente, quando uno ti dice nella sicurezza, te che sei un esperto, sai più, non dico che sapevo che era così o cosa, però tante voci giravano già allora che non io l'ho saputo dopo, che non pagava i rifornitori via scorrendo. Quindi lui doveva dire, guarda, questo qui non è uno speculatore che va a cercare, come ha detto lui, che cerco solo le cedole massime, non è vero, perché le 6,80 a quel tempo non erano le più. E tanto è vero che soltanto 15 giorni dopo io ho investito ancora un po' di soldi che avevo al 3,5%, lo dissi anche in tribunale. Lei si è rivolto poi all'associazione dei consumatori, sì, per cercare di recuperare? Certo, io sono ignorante, come posso recuperare? E allora mi sono rivolto a queste associazioni e fino adesso si sono dati da fare e speriamo, ecco. Quanto ha recuperato? Il valore della Parmalat partito in borsa adesso, grosso modo, per me, grosso modo, 20.000, grosso modo.